perso i miei soldi correndo dietro a donne e droghe, alcol in fiamma, bocche di poeti, di strade, nel vicolo dietro casa. Dio è morto, nessuno a parte me se n'è accorto. Tutti sanno che il denaro ha comprato il mondo, nessuno vuole più andare a fondo. Psicoartisti cercano l'amore perduto, sclerando sul foglio sordo e muto. La luce si è spenta, il grigio trova il suo saluto, mentre la dopa scende. Gioie giocando coi veleni, giocattolo delle strade troie, cocaine sacre pure in cerca di glorie, dentro al salotto borghese il diavolo è risorto, acceso dal denaro a sopravvivere, infarto, il banchiere se n'è accorto. Cappio al benedetto cielo storto, soldi mangiano bimbi, sudori urlano limbo, sospesi sogni anonimi cercano un sicuro porto, mentre la coca sale, sale, sale. Ora per due notti in più ci si manda pazzi per due fighe, Gesù, e se si perde liquido dell'amore tessuto, ecco che le cicatrici ci ricordano dolore taciuto, cadono gocce di sangue sulle strade.